cos'è? Una grazia al fumo. Ma che spiritosa signora, lei è proprio birbante. Così va a Parigi. Città affascinante. Lei viaggia da sola. Ha proprio ragione, i giorni di sole sono rari. Che tipo sicuro. Pretendevo solo un poco di realtà.